Come hai vissuto da partigiano i rapporti con i civili? C'è stata collaborazione? C'è stata qualche tensione? Tanta collaborazione, almeno nei nostri confronti dove siamo stati, abbiamo avuto molta collaborazione, sì. Se non c'erano loro, eravamo messi male. E come hanno contribuito i civili alla lotta partigiana? In che modo? Ci davano da mangiare, ci davano da dormire, insomma, ci aiutavano in tutto e per tutto quello che potevano fare, perché anche loro non è che avessero. Noi, come partigiani, cioè siamo andati a prendere, andavamo a prendere anche del frumento. Frumento, chi l'aveva prendito, siamo andati dalla Zaira, per dire, dai Munari, Legat, che scrive. Dalla Zaira, dai Monari, così, e ci hanno dato, anche giù da dove si andava a prendere il grano, ci lasciavamo un buono, che dopo la liberazione sono stati risarciti tutti, tutti quanti. Ci lasciavamo un buono e avevamo prelevato questo frumento per mangiare, insomma, non era che lo andavamo a rubare. E difatti dopo la liberazione tutte quelle. Quelli che avevano il buono li hanno risarciti del danno subito, ecco. Non è che dice, come hanno fatto la propaganda, che noi andavamo a rubare qui, a rubare là. Qui chi rubava ne era mia di partigiani, erano di suoi soci, come è successo qui a Fanano, che non voglio stare a commentare molto, però. Si è saputo, è risaputo, la colpa è stata dei partigiani, invece erano i suoi soci fascisti che facevano quelle cose lì.